Italia, dove la legge collusione alla tangente è di norma, io lascio la mia impronta. In Italia, dove la legge collusione alla tangente è di norma, io lascio la mia impronta. In Italia, dove la legge collusione alla tangente è di norma, io lascio la mia impronta. In Italia, dove la legge collusione alla tangente è di norma, io lascio la mia impronta. Pensa se nel 2008 dovevi iniziare un pezzo con un intro del 94. Menti più standa il complotto per infliggere il voto. Colpo di grazia, tag sulla serranda. Sfregio il cannibale politico corrotto. Idee invisibili, irrisibili, vendibili da mendicanti di consenso. Politi, canti, scambi, voti per il censo. E senza senso, ma questo è il tempo per un'altra rima contro il caro vita. E qui la sfida, e chi ti vota è solo un altro zombie che si fida. Crisi permanente, ho capito. Io vivo in uno stato cannibale impotente, una fabbrica demente, hai capito? Ma io sono dalla parte della gente, merde. Siamo un popolo di obesi, pieni di carboidrati, democratici, italiani aristocratici. Ora mangiateci. Siamo un popolo di obesi, pieni di carboidrati, democratici, italiani aristocratici. Ora mangiateci. Siamo cannibali, come questa società. Ci guardiamo, ci squartiamo, ci mangiamo. Ma alla fine è sempre caliscane medit tra i coprofagi e le feci qua. Niente conta come i verdene. Dimmi chi c'è cera che ti aggiungo un posto a tavola. Deodato ci ha azzeccato. Guarda che hanno sbranato sti politici. Guardando tartarughe, sono specifici i moduli di slughe, come per gli emilici. Siamo un popolo di obesi, pieni di carboidrati, democratici, italiani, aristocratici. E violentando vergini nella terra dei morti viventi, più dei bimbi. Noi siamo oscuri nel mondo degli splendenti colori artificiali. Troviamo il male dentro i beni capitali e tali talismani, come bravi clericali. Amiamo Dio ma spogliati. Siamo un popolo di obesi, pieni di carboidrati, democratici, italiani, aristocratici. Ora mangiateci. Siamo un popolo di obesi, pieni di carboidrati, democratici, italiani, aristocratici. Ora mangiateci. Dai scanda, manda sto beat che ha chitto una botta di rime su sta strofa del cazzo. Mentre corro perdifiato sulla strada, penso che ammazza più la gola che una spada affilata. E c'è cannibalismo su sto suono. Oggi so ingrediente per uno chef di carne d'uomo. Stasera c'ho un invito ma mi sa che butta male. M'ha chiamato l'organizzatore di una campagna elettorale. Sono narcotizzato in mezzo a slogan e cori davanti a una famiglia come il bosco fuori. E mentre il banchetto si prepara per la festa, penso a farmi fuori con un colpo in testa. È meglio crepare, fa la terra per i ceci, che diventare pasto di affaristi pieghi.